English Bit di Giulia Crivelli. Must. Boris Johnson tells Iranian president nuclear deal must stay. Boris Johnson dice al presidente iraniano che l'accordo sul nucleare deve restare in vigore. Il Telegraph ha scelto questo titolo molto secco per raccontare uno dei mille aggiornamenti sulle telefonate tra leader mondiali dopo l'uccisione del generale iraniano Soleimani da un drone americano. La parola che ci interessa è must, voce del verbo irregolare to must, must, must. Il significato è dovere, ma con una sfumatura di perentorietà che il verbo to have to, equivalente, non ha. You have to admit, this time he was more friendly than usual. Dai, ammettilo, diremmo in italiano, questa volta è stato più gentile del solito. You must wear seatbelts for any trip, no matter how short. Devi mettere la cintura di sicurezza, non importa quanto breve sia il tragitto. You must not forget how much she suffered before you passed judgment on her. Non devi assolutamente dimenticare quanto ha sofferto prima di giudicarla. Must not può anche essere abbreviato in mustn't. You mustn't say things like that. Non devi dire cose simili. Sempre in toni perentori, cars must not park in front of the entrance. Non si può parcheggiare, sottointeso è vietato, di fronte all'entrata. Ed ecco un tono sempre di dovere, ma non così perentorio. Nurses have to wear a uniform. Le infermiere devono indossare un camice, una divisa. I have to collect the children from school at 3 o'clock. Devo andare a prendere i bambini a scuola alle 3. She does not have to work at weekends. Non è obbligata a lavorare nei weekend. Tra gli idioms, if you must. Can I smoke? If you must. Posso fumare? Se proprio devi, se proprio non puoi farne a meno. It's from my boyfriend, if you must know. Me l'ha regalato il mio fidanzato, se proprio vuoi saperlo. Sydney is one of the world's must-see cities. Sydney è una delle città da vedere nel mondo. The magazine is a must-read in the show business world. Quella rivista è una lettura obbligata per chiunque lavori nel mondo dello spettacolo. Must è anche sostantivo. His new novel is a must for all lovers of crime fiction. Il suo ultimo romanzo è una lettura irrinunciabile per tutti gli amanti del genere giallo. Ci sono anche espressioni simili all'italiano. I must admit, I was surprised it cost so little. Devo ammettere di essermi stupita che costasse così poco.